Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia a tutti voi l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Anche questa settimana, come la scorsa, solo due volumi di Eclettica. Poi dalla prossima si riprenderà il solito giro fino alle prossime feste. 19:20 tutti i giorni della settimana. Questa invece solo il giovedì e il venerdì, giorni entrambi, poi reperibili anche in podcasting. Questa settimana sto leggendo Vladimir Nabokov e vi sto facendo ascoltare anche qualche novità, nonostante il periodo natalizio non coincida con nuove uscite discografiche, però qualche anticipazione riesco a darvela e qualche recupero di brani magari di fine 2007 ancora non ascoltati riesco ad inserirlo. L'attempato passeggero, seduto accanto al finestrino sul lato nord di quella carrozza ferroviaria inesorabilmente in corsa, con un posto vuoto a fianco e due posti vuoti di fronte, altri non era che il professor Timofey Pnin. Mirabilmente calvo, abbronzato e rasato con cura, aveva un inizio piuttosto imponente, con la gran cupola brunita del cranio, gli occhiali cerchiati di tartaruga che mascheravano un'infantile assenza di sopracciglia, il labbro superiore da primate, il collo solido ed il torso muscoloso serrato in una giacca di tweed attillata, ma a una fine un po' deludente, con due gambette sottili, al momento rivestite di flanella e accavallate, e due piedi dall'apparenza fragile, quasi femminei. Questo era l'incipit di Pnin di Vladimir Nabokov. Da da da. What are you doing? I've lost her, Marty. There's nothing left for me here. All right, that's why you gotta come back with me. Where? Back to the future. Rapidamente legami, poi controlla l'instabilità di ogni nostro punto di contatto e spiegami cosa vuoi da me, come devo cambiare per non farti star male. Tu da me non hai che l'assenza. Resta è la distanza. Tu da me non avrai che l'assenza. Quello che ti resta è la distanza. La distanza. Sembra indispensabile e poi finire le parole dentro ai gesti stanchi e poi tornare ad imparare a rimanere soli. Siamo lontani, lontani. Resta è la distanza. Tu da me non avrai che l'assenza. Quello che ti resta è la distanza. La distanza. Puoi finire le parole, la distanza. Come finire le parole, la distanza. Come finire le parole, la distanza. Come finire le parole. Dopo esserci ascoltati Paolo Benvenu con La Distanza e prima ancora il duo italo-tedesco di nome Woog Riots con il pezzo King of Pop, è la volta di una cover degli LCD Sound System, una cover di un brano recentissimo degli LCD Sound System, di un brano estratto da Sound of Silver. Infatti è estratta da una compilation disponibile in podcast dal sito Coke Machine Glow, che contiene brani rifatti e brani che originariamente sono degli ultimi 12 mesi, un'esperienza che il sito Coke Machine Glow ha ripetuto dopo quella già fatta l'anno scorso. Ci sono all'interno di questa compilation artisti come Menomena, Marissa Nadler, The Arctic, Castanets e anche la formazione di Boston di nome The Main Drag, che ha scelto appunto di rifare il pezzo degli LCD Sound System e quello intitolato All My Friends. That's how it starts. We'll go back to your house. charms and start to figure it out. And if it's crowded, all the better, because you know we're gonna be a play. If you're worried about the weather, then you pick the wrong place to stay. That's how it starts. And so it starts. Switch the engine on. We take controls from the heart of the sun. One of the ways to reach your age. And if the sun comes up, if the sun comes up, if the sun comes up, then it's still the one to stagger. Submission. I can still come home to them. Sebastian Knight nacque il 31 dicembre 1899 in quella che era allora la capitale del mio paese. Un'anziana signora russa, che per qualche oscura ragione mi ha pregato di non divulgare il suo nome, mi ha mostrato per caso a Parigi il diario che aveva tenuto in altri tempi. Quegli anni erano stati in apparenza così poveri di avvenimenti che la raccolta di piccoli fatti quotidiani, questo è sempre un modesto metodo di autoconservazione, andava a malapena al di là di una concisa descrizione dei dati meteorologici. Ed è curioso osservare a questo proposito come i diari personali dei sovrani, nonostante la gravità dei guai che affliggono i loro reami, si occupano principalmente del medesimo tema. Poiché la fortuna, a lasciarla fare, è quello che è, mi si offriva dunque una preda sulla quale non avrei mai potuto mettere le mani se l'avessi inseguita di proposito. Questo era l'incipit della vera vita di Sebastian Knight. He started to woo her in the most peculiar way. The librarian's dress was a fawnish shade of gray. The books he was to borrow, he would surely never read. They had an intellectual caliber he hoped that she would see. He planned to take her home to bed someday. He'd smooth her goosebump skin while she lay. But the unspoken thing they both knew was he'd dream of her often. She would forget in jest. Beginning to irritate, so she made him go away. The smallest, cruelest insult she ignored his subtle ways. The deathly silence let him know his efforts were in vain. Did the words ever exist? And if so, could he find them? He planned to take her home to bed someday. He'd smooth her goosebump skin while she lay. Oh, no. Grazie alla recentissima ristampa ho recuperato questo disco degli Hefner che vi siete appena ascoltati, un disco che risale a parecchi anni fa, ma non riesco a liberarmene del motivo per cui vi siete ascoltati The Librarian. Grande pezzo, a mio parere. E chiudiamo questa prima parte di Eclettica di quest'oggi invece con una novità che arriva dalla California. Loro si chiamano The Pterodactyls, sono un duo che ha inciso un album di debutto per la Punk Off Records, come spesso avviene in questi casi, dal titolo omonimo The Pterodactyls. Io vado ad estrarre da questo disco un brano in cui compare come ospite alla voce Kimia Dawson. È una voce femminile che si accompagna a strumenti giocattolo come chitarre oppure piano, ma anche al kazoo, che è il marchio di fabbrica della formazione. In quasi tutti i brani dell'intero album il kazoo fa la sua bella presenza, anche in questa Devices. I'll start with you. If you start with me, we can start together, maybe start a family tree. Like a couple of words starting with the same letter. I wanna literate with you. I wanna sound clever. We don't quite fit. We don't really rhyme. But we got a good meter going when we grind. We slant to the beat and we slant to the melody. It feels like we fit when we're dancing on MTV. Gentlemen, excuse me, but my friend and I have to catch a train. Here's to you, Blacksmith! And to the future. Amen. Amen. Helmet, no! Come on, Doc. Wake up. Wake up, Doc. How many do you have? Just the one. Just the one? Come on, Doc. There's a fella that can't hold his liquor.